No, no, la testa va bene. L'unica paura è stata dopo la bandiera a scacchi, che io ero molto lento. Biagi mi ha sorpassato molto vicino, velocemente. E lui è solito fare queste stronzate. Evidentemente mi tiro il culo a arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao. Ciao belli, come state? Guardate, sono quello con la moto gialla. Se sei folle, se sei incerto, se sei vale, tieni aperto. Aha.